Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Iniziamo insieme la settimana. Andiamo a sentire i temi di cui ci occupiamo oggi. Pronto, mi senti? Ma quanto mi senti? Parliamo di udito. Watsu, shatsu in acqua. Vacanze, un'occasione per rimettersi in forma. Oggi la prendiamo un po' da lontano, andiamo indietro nel tempo, nella seconda metà del 1800, 1861 per esattezza, siamo a Parigi, all'Istituto Imperiale dei Sordomuti. Qui lavorava come medico capo Prospero Meunier, il medico che per primo descrisse la malattia di cui ci occupiamo oggi, che da lui prende il nome, la malattia di Meunier, una malattia dell'orecchio interno che si manifesta con sintomi di cui abbiamo parlato spesso in puntate precedenti, vertigini, orecchio vattato, diminuzione dell'udito e acufeni, ma che per varie ragioni in questa malattia si associano, creando un quadro complesso da decifrare per i medici e difficile soprattutto da sopportare per i pazienti, per chi ne soffre. Oggi con noi il professor Giorgio Guidetti, responsabile del servizio di audiovestibologia e rieducazione vestibolare dell'azienda USL di Modena. Buongiorno professore. Buongiorno. In linea con noi da Pavia il dottor Marco Manfrin, otorinolaringoiatra e audiologo al Policlinico San Matteo. Buongiorno dottore. Buongiorno. E abbiamo il piacere di avere con noi la signora Nadia Gaggioli, che è fondatrice e presidente dell'Associazione Italiane Malati di Meunier. Signora Gaggioli, buongiorno. Buongiorno a voi. La chiamerò Nadia, le dispiace? Certo, va bene, mi fa più piacere anche a me. Allora, professore Guidetti, mi sembra che questa malattia comprometta in modo evidente l'organo orecchio, perché compie un'azione di sabotaggio, diciamo così, sia nei confronti della funzione uditiva che di quella dell'equilibrio. È così? È esattamente così. Purtroppo è una malattia che progressivamente va ad interessare tutte le zone dell'organo dell'orecchio interno, quindi sia la coclea, la parte dell'udito, che è il cosiddetto labirinto posteriore o vestibolo, cioè la parte dell'equilibrio. Purtroppo è così, sì. E crea, immagino, anche un forte impatto emotivo, perché anche in puntate precedenti, analizzando in modo separatamente i vari sintomi, abbiamo visto che sono molto fastidiosi. Allora io chiederei subito a Nadia di descriverci un po', no? Che cosa prova una persona che deve tenere a bada e ha il timore che questi sintomi compaiano, no? Perché l'equilibrio, gli acufeni, l'udito che diminuisce, e poi sono anche un po' improvvisi, no? Le crisi possono arrivare così inaspettatamente. Sì, infatti io definirei la Meunier un uragano che proprio sconvolge la vita del malato. Abbiamo detto acufeni, sordità e tenerezza auricolare, ma soprattutto possiamo dire gli attacchi di vertigine, che non sono giramenti di testa, sono crisi rotatorie, allucinazioni visive. Noi vediamo in movimento ciò che in realtà è fermo. Quindi queste crisi, che a volte danno un'aura pre-crisi che fa scattare il campanello d'allarme, no? Sta per arrivare una crisi, quindi fermo l'automobile, mi sdraio, mi metto in posizione di sicurezza, ma molto spesso purtroppo arrivano all'improvviso. Quindi in questo istante sto bene, tra due secondi sono sdraiata a terra con una crisi rotatoria alla quale si accompagna molto spesso il vomito, a volte anche incontinenza, ci sono anche alcuni casi di incontinenza. Quindi l'emozione dominante dopo aver sperimentato la prima crisi diventa la paura. Immagino. Questo è assolutamente quello che i malati sentono e provano. Immagino quindi anche lievitamento. Cercare di non trovarsi in situazioni in cui di fronte alla crisi ci si sente persi. E questo diventa un aspetto peggiorativo della malattia, perché l'isolamento nel quale si trova il malato, forzatamente, nel senso in cui deve evitare situazioni di rischio, ma queste situazioni di rischio fanno parte della quotidianità, quindi si evita quello che per le persone normali, tra virgolette, è normale. Quindi semplicemente una madre, abbiamo alcuni casi in associazione adesso di giovani donne che hanno partorito, non tengono in braccio il proprio bambino. Per paura, hanno paura di cadere. Certo. Dottor Manfrin, Nadia ha detto un uragano, l'ha descritta così questa malattia, ma è una malattia più femminile o maschile? E soprattutto c'è un'età di insorgenza più tipica? Sì, direi che c'è una lieve prevalenza femminile, forse qui da ricercare in una correlazione forse con l'assetto ormonale del sesso femminile, e l'età media di insorgenza è media, diciamo, è giovane adulta, insomma intorno ai 40-50 anni, ecco. Professor Guidetti, abbiamo detto vertigini, diminuzione dell'udito, senso di ovattamento, acufeni, sono sintomi abbastanza comuni, ogni volta che ne abbiamo parlato i nostri centralini squillano e direi subito di dare la parola ai nostri sms che sono arrivati al 349-238-6666. Carlo ad esempio mi scrive: ho spesso l'orecchio tappato e soffro di vertigini, ho la pressione alta, ma cosa devo pensare allora? Giusto, questa malattia, avendo dei sintomi comuni a tanti altri disturbi del labirinto, per forza di cose richiede una diagnosi differenziale. Giustamente il malato, sentendoci per esempio in questo momento, potrebbe pensare che anche solo uno di questi sintomi debba obbligatoriamente dirigerlo in questa direzione. In realtà, appunto, occorre un attimino riflettere prima di dire che un paziente ha una malattia di Meniere. E in generale, per esempio, un orecchio tappato e vertigini che siano magari sensazioni non proprio di rotazione violenta dell'ambiente o comunque un orecchio tappato ogni tanto, magari non contemporaneo all'attacco di vertigini, devono far pensare anche ad altri disturbi molto meno preoccupanti, insomma. Certamente comunque di interesse otorinolaringoiatrico, quindi da approfondire con le indagini e le consulenze adeguate, facendosi visitare in ambienti vestibologici. Antonella da Bologna ci scrive: mi si tappa l'orecchio, mi gira qualche volta la testa e le mie figlie dicono che non sento più come prima. Ho 52 anni, non ho mai dato peso a questi disturbi, puntini di sospensione, mi suggerite di farlo? Dottor Manfrin. Beh sì, mi riallaccio a quanto detto dal dottor Guidetti, sì, mi suggeriamo di valutare. Non è detto che ovattamenti e calo uditivo, soprattutto se il calo uditivo magari è di vecchia data e crisi vertiginose, magari non associate o non in combinazione, possano significare una malattia di Meniere. Possono essere altre cose ed è giusto valutarli e ponderarli negli ambienti adeguati. Ecco. Ah, professor Guidetti, ci aiuta ad esempio se il disturbo è mono, bilaterale, ci dia qualche indicazione? Ma sì, anzitutto la Meniere tipicamente monolaterale, molto raramente diventa bilaterale, quasi mai in contemporanea un lato con l'altro. Poi direi che chiaramente un'altra delle cose che bisogna fare, a cui bisogna fare attenzione, è il tipo di evoluzione dei sintomi. Tipicamente nella malattia di Meniere la sordità ha alti e bassi, almeno all'inizio. Quindi queste sensazioni di oddio, ho perso l'udito, no, l'ho recuperato dopo un paio di giorni, queste sono le cose che devono fare pensare. Capisce, l'acufene ha talmente tante cause che lo vedrei come meno specifico. La sensazione di orecchio chiuso, anche lì, qualche volta accompagna anche semplici disturbi della tuba di Eustachio, del canale fra naso e orecchio. È un po' il gioco di concomitanze e di fluttuazione dei sintomi e comunque veramente il sintomo che deve fare riflettere la violenta crisi che duri qualche minuto, anche una ventina, raramente ore, se non in casi particolari, quando è così violenta e ricorrente, questo è un elemento che deve sicuramente fare drizzare le orecchie nel senso preciso. Nadia, vengo da lei come paziente, vuole aggiungere qualcosa? Sì, di fare molta attenzione, nel senso che questi sintomi che abbiamo descritto si possono presentare a volte in modo diverso e un po' ambiguo nella malattia. Si tende a volte nella prima fase a sottovalutarli, così come ho fatto io in un primo momento. Quello appunto, come diceva il professor Guidetti, che deve fare scattare il campanello d'allarme è la crisi vertiginosa, non va sottovalutata. E l'attenzione deve essere rivolta al medico curante, al medico all'otorino naturalmente, ma i centri specializzati che curano il paziente in modo attento, premuroso, perché è un paziente che ha paura. Questo è un particolare molto molto importante. Se il paziente si fa vincere dalla paura, diventerà un aggravante della malattia molto molto importante. Sì, diventa schiavo della sua malattia, sì, quindi sì. Parlatene con il vostro medico di base che sicuramente vi indirizzerà al centro giusto. Ne parleremo nel corso della trasmissione, restate con noi. Una mela al giorno. Il Immergetevi perché iniziamo una breve lezione di shiatsu, anzi dovrei dire watsu, lo shiatsu in acqua, e lo facciamo col professor Fulvio Palombini, reumatologo, docente in fisioterapia all'Università La Sapienza di Roma, Ospedale Sant'Anna. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Molti dei nostri ascoltatori avranno già provato lo shiatsu in acqua, quindi il watsu, proprio in spa, nelle piscine termali. Sì, nei centri benessere, va molto di moda. È una tecnica dolce di massaggio, diciamo, deriva dallo shiatsu. Lo shiatsu è una tecnica di shi dito atsu pressione, una tecnica molto profonda di massaggio. Quindi il presupposto è che ci sia un lettino, una superficie solida, perché la pressione possa raggiungere in profondità il corpo. In acqua questo non è possibile, però gli effetti sono comunque molto buoni da un punto di vista muscolare, vascolare, un buon massaggio, una buona tecnica da provare sicuramente. Lo possiamo provare nei centri benessere e lo raccomandiamo, vero professore? Sì, assolutamente sì, una tecnica assolutamente da provare, perché è molto rilassante e soprattutto molto, stimola molto la circolazione, quindi si può usare in casi di crampi notturni, si può usare in caso di agitazione, il muscolo si agita quando siamo stressati, ansiosi, e la pressione seda, calma, più l'effetto dell'acqua. L'acqua è sempre una grande cosa, no? Non l'hanno inventato i greci, i romani, quindi l'acqua è l'acqua. Una grande mamma. Allora, per chi non può sottoporsi al watsu nelle piscine termali, nei centri benessere, possiamo trasferirci in casa nostra e magari approfittare della vasca da bagno, del bagno serale o mattutino per sciazzarci un po'. Certo, l'acqua un pochino calda sempre, io consiglio sì la sera sicuramente, ma anche la mattina ci alziamo che il corpo è freddo, quindi immergiamoci un pochino nell'acqua calda, siamo un qualche minuto e poi iniziamo a lavorare, soprattutto a premere soprattutto la parte interna delle gambe, per esempio, che è una zona molto vascolarizzata, molto innervata. Quindi dolci pressioni sulla parte interna delle gambe e anche sopra le gambe, dove c'è il grosso muscolo quadricipite che spesso si contrae, crea grossi problemi anche alla colonna vertebrale. Allora, quanto deve durare, professore, questa leggera pressione? 2-3 minuti di pressione, 2-3 minuti. Chi può, chi ce la fa, potrebbe anche cercare di premere la pianta del piede. La pianta del piede è una zona meravigliosa, una zona viene considerata un po' il secondo cuore, quindi se, chiaramente non tutti riescono. Quando si va a fare watsu con l'operatore, col terapeuta, sarà lui a fare le pressioni su questi punti. Diciamo che da soli le zone più importanti, la parte interna delle braccia, si fanno delle pressioni morbide dove c'è un canalettino, si vede un canalettino tra il muscolo bicipite e il tricipite, lì delle pressioni dolci, delicate, ripetute, e così anche l'interno delle gambe. E poi non dimentichiamo i piedi, quindi anche per pediluvi. Il piede è una grande, una superficie meravigliosa su cui si possono fare delle terapie stupende, soprattutto con la pressione. Grazie professor Palombini, proveremo. Buona giornata. Buona giornata a tutti, grazie. Pronto soccorso. Malattia di Meniere, questo è il tema di oggi, una patologia che interessa l'orecchio interno e dà problemi di equilibrio e di udito. Posso descriverla così, professor Guidetti? Esattamente, è una descrizione perfetta. Poi aggiungerei l'aggettivo ricorrenti. Ricorrenti, ecco, questo mi mancava e questo fa la differenza, Nadia lo sa bene, vero? Esattamente, sì. Andiamo a Paola, che ci chiama da Treviso. Paola, buongiorno. Sì, buongiorno. Intanto complimenti per l'eccellenza di questa radio che ascolto da 10 anni. Insomma. Brava! Sì, sì, mi ha fatto crescere, devo essere sincera, insomma. Grazie Paola, in questo modo ci fa gli auguri. Grazie. Beh, senz'altro. Allora. Vi devo. Senta, io ho mio marito che ha 54 anni, soffre di un fastidioso acufene e anche a volte, adesso collego, a volte mi dice che ha delle vertigini. Sì. Noi siamo da poco tornati da Tabiano, dove lui ha fatto un percorso per gli acufeni, insomma, e la mia domanda era questa, cioè è possibile che se fosse stata questa malattia i medici si fossero accorti, oppure bisogna approfondire ancora perché i risultati, insomma, non ci sono stati, ma sapevamo, insomma, però dobbiamo, come dire, preoccuparci, dobbiamo. Grazie Nadia, perché lei mi dà lo spunto di chiedere a Paola, scusi, a Nadia, ancora prima dei miei esperti. Nadia, è difficile per un paziente arrivare ad una diagnosi? Purtroppo al giorno d'oggi ancora sì. Devo dire che abbiamo molti pazienti in associazione che seguono dei percorsi un po' perversi, ordifenisco, perché prima di arrivare alla Menière, che è costituita dai sintomi che abbiamo detto e che, voglio dire, fortunatamente molti otorini conoscono e riconoscono, al giorno d'oggi ci sono ancora molti medici che liquidano dicendo: ma al giorno d'oggi tutti hanno la Menière oppure nessuno ha la Menière. Quindi sì, il percorso a volte può essere un po' difficoltoso. Un po' contorto. Allora, sì. Io ho i due esperti che di Menière si ne occupano, e quindi professor Guidetti, dottor Manfrin, come si arriva alla diagnosi? Professor Guidetti, poi passiamo al dottor Manfrin. La diagnosi, intanto si ascolta il malato giustamente con l'anamnesi, che ha quella storia appunto di ricorrenze, episodi isolati con magari specialmente all'inizio lunghi periodi anche di benessere, e quindi questo aiuta già a capire, ma soprattutto chiaro, bisogna fare poi un'indagine, un esame dell'udito fondamentale per documentare il tipo di sordità, che sostanzialmente è molto classico e si diversifica dalla maggior parte degli altri perdite uditive di altra natura. Quindi questo è fondamentale, ma poi soprattutto questa malattia richiede proprio per definizione di escludere tutte le altre patologie che possono assomigliarle come sintomatologia, e quindi io ritengo che quando si hanno dei dubbi seri di malattia di Menière, la prima cosa da fare sia escludere malattie più gravi che colpiscono il nervo, quindi per esempio io ho l'abitudine di fare una risonanza magnetica per escludere qualsiasi altra malattia in grado di assomigliarle. Quindi si arriva un po' alla diagnosi per esclusione, mi lasci dire così. Si deve arrivare per esclusione, diciamo, anche se l'evoluzione, i sintomi, insomma, i segni clinici, la sordità, il tipo di sordità, il tipo di vertigine, i segni che si vedono studiando i movimenti oculari del malato, insomma, portano abbastanza con precisione a questa diagnosi. Nadia, la vostra associazione sta facendo molto per i malati. Lavorando molto da ormai 13 anni, la nostra è una onlus, l'unica realtà in Italia a tutela del paziente affetto da questa patologia. Abbiamo 3 sedi operative a Bologna, Torino e Benevento, presso ospedali pubblici. Abbiamo centri di riferimento quali quello di Modena, Pavia, ma anche Firenze, Chieti, altre città, dove cerchiamo di collaborare con strutture serie, strutture competenti che possono aiutare veramente il malato. In più noi organizziamo incontri tra malati e medici, nei quali i malati si confrontano tra loro, parlano, pongono domande ai medici, partecipano anche i familiari. Naturalmente gli incontri sono gratuiti, aperti a tutti, e questo è un grande conforto per il malato. Sicuramente, perché io penso che la vostra associazione aiuti anche a creare un'alleanza, che in molte malattie, questa non sicuramente una delle tante, l'alleanza tra medico e paziente è fondamentale. Professor Guidetti, che ne dice lei da medico? È un tema un po' scottante. Per quanto riguarda problemi emotivi dei pazienti, diciamo che i malati di Menière hanno di per sé un po' di natura loro, voglio dire, sono fatti così, sono caratteri un po' emotivi. Immaginarsi quando un soggetto un po' emotivo poi si installa una patologia di questo genere diventa veramente il punto dolente, essenziale. Quindi bisogna trovare la maniera di essere chiari, parlarsi chiaramente, cercare di costruire quella che lei chiama un'alleanza tra malato, sì, nei limiti del possibile, che al giorno d'oggi quello che si può fare nell'ambito di una sanità pubblica è sempre quello che si cerca di fare. Certo. Però insomma è chiaro che questo tipo di malato richiede un po' più di attenzione di altre patologie, nel senso che più spesso bisogna spiegare, aiutare, cercare di dare suggerimenti per la vita, dargli informazioni circa i rischi che corrono questi pazienti. Per esempio, prima si è parlato del rischio in auto, anche se è un rischio molto, molto relativo statisticamente. È vero che il malato la prima cosa di cui teme è di avere un attacco all'improvviso in auto e di ovviamente subire le conseguenze, quindi bisogna, tante volte bisogna spiegare molte più cose a questo malato, ecco, quindi mi sembra corretto, e cercare di evitarne lo stress che crea il circolo vizioso del peggioramento. Certo, dottor Manfrin, quanto conta lo stress? Direi che conta tantissimo, e forse sta emergendo che c'è proprio uno stretto nesso di causalità fra l'inizio della malattia o la fase florida della malattia e la vita conflittuale e stressante dei singoli malati. Che poi questo possa avvenire, e si sta studiando in questo senso, con l'intermediazione di alcuni ormoni che si liberano nell'organismo sotto lo stress, e che questi ormoni possano andare ad interferire in qualche modo nelle funzioni dell'orecchio interno, perché ricordiamolo è legato ad un accumulo di liquido normalmente presente all'interno dell'orecchio, si chiama endolinfa. Questa endolinfa ha una sua regolazione, questa regolazione può essere alterata proprio da questa interferenza, quindi non c'è ancora un'evidenza scientifica, ma comunque lo stress sicuramente è il fattore numero uno. Che peggiora i sintomi. Abbiamo capito che cosa succede dentro l'orecchio, andremo anche alla terapia, che non è solo farmacologica, ne parleremo, ma prima voglio dare la parola a Mario, che ci chiama dalla provincia di Trento e che ci sta aspettando. Mario, buongiorno. Buongiorno, dottoressa Nicoletta. Dunque, io circa 2 anni e mezzo fa mi è venuto un'otite media all'orecchio sinistro. Sì. Ed è stata curata, diciamo così, con antibiotici, eccetera, per 2 mesi sono andato via. Dopo 3 mesi, verso la fine dell'anno, era novembre, ricordo, no? Sì. Era mezzanotte, mi sono alzato così, avevo intenzione di farmi una suonata per pianoforte, pensi lei? Ah, mentre perché lei suona anche il piano? Sì, diciamo così, non ho finito il conservatorio. E allora, mentre camminavo, sì, mi è venuta nella testa come sì, uno che mi avesse mitragliato con una mitragliatrice. Sì. E mi è venuto un attacco di panico, perché pensavo di morire. E certo, cioè, ho telefonato subito all'ospedale, al pronto soccorso, sì, alla guardia medica, mi ha detto che era stato un attacco di panico, eccetera. Insomma, fatto sì è che poi non sono più stato capace di coricarmi. Alla mattina ho telefonato al neurologo, mi ha detto che era un attacco di labirintite. Sì. Fu la prima volta 2 anni e mezzo fa che sapevo che esisteva anche la labirintite. Perché prima non... Senta Mario, ma adesso come sta? Ecco, è quello che volevo dire adesso, no? Io ho passato un'influenza adesso molto molto pesante, con bronchite, sì, focolai di polmonite, eccetera, no? E ho la testa sempre, ho una paura, ho il terrore che mi venga questa attacco, perché mi vengono delle vertigini, perché a questo deve aggiungere che 5 anni fa ho subito un trauma alla cervicale. Quindi insomma una serie di concause. Dottor Manfrin, grazie Mario. Il nostro amico ci ha descritto, no, un po' la sua situazione, andando anche indietro nel tempo. Lei che cosa coglie dall'intervento di Mario? Ma sì, colgo che... Una grande paura, sì, di ritrovarsi a vivere la stessa situazione. Sì, sì, sì, sì, c'è una grossa componente emotiva e soprattutto c'è questa paura che avvenga qualcosa che è avvenuto tanto tempo fa. Qui ci sono più cause, più cose, più considerazioni da fare. Ora poi è possibile che in corso di un'otite media acuta, come il paziente aveva detto di avere, ci possa essere dei disturbi dell'equilibrio proprio per una labirintite, che è un termine un po' inflazionato, che nulla ha a che fare con la malattia di Meniere, ma che esiste come tale. Poi ci sono tante altre cause, tante altre considerazioni che il nostro ascoltatore ha fatto e direi che andrebbero poi ponderate con calma, ma quello che emerge è uno stato d'ansia, è uno stato così di paura che avvenga qualcosa. E adesso facciamo un attimo di pausa, poi di nuovo insieme per parlare di Meniere. Tra poco vi aspetto. Essere e benessere. Siamo tornati e siamo pronti per riprendere il tema di oggi, che riguarda una patologia complessa, la malattia di Meniere, una malattia che condiziona la vita di chi ne soffre, come abbiamo sentito dal racconto di Nadia, che è qui proprio per dare voce ai malati. Professor Guidetti, molte persone in presenza di sintomi, di questi sintomi associati oppure separati, vanno dal medico, vengono prescritti degli esami, fanno gli esami danno esito negativo, eppure i sintomi restano e magari poi si accoppiano. Allora, che cosa si può fare per uscire da questo circolo vizioso che rende anche il malato, il paziente, la persona che ne soffre, la fa vivere in uno stato di apprensione? Ma se non nelle primissime fasi, direi è quasi impossibile che gli esami fatti in questa malattia risultino negativi. Un esame accurato dell'udito rivela quasi sempre, se non ripeto nei primissimi episodi, comunque rivela quasi sempre una sofferenza della funzione uditiva, abbastanza tipica, abbastanza caratteristica, e così pure lo studio dell'apparato vestibolare fornisce informazioni addirittura sullo stadio della malattia, quindi voglio dire si tratta di avere un po' di attenzione e di rivolgersi nei centri giusti sostanzialmente. La negatività proprio direi che può essere più spesso figlia di un errore di valutazione che non di una reale normalità dell'apparato dell'equilibrio dell'udito. Nadia, a lei com'è andata? È riuscita ad arrivare presto alla diagnosi o ha fatto tanti esami prima di avere bene il quadro della situazione? Io sono stata fortunata, nel senso che una mattina mi sono svegliata con l'orecchio chiuso, questo senso di ovattamento. Il fruscio che ho da sempre nell'orecchio era diventato in realtà un ronzio molto, molto forte. Sì. A mezzogiorno ho cominciato l'instabilità, difficoltà a stare un po' in piedi, sono andata in ospedale, mi hanno fatto immediatamente un audiometrico e risultava una perdita di uditiva di circa 40 decibel, della quale non mi ero accorta. Sì. E immediatamente mi hanno parlato di malattia di Meniere. Vedevo facce molto, molto serie, molto costernate, mi proposero un ricovero che io rifiutai perché non mi sentivo poi così male. Dopo 15 giorni ho avuto il primo attacco di vertigini vera, rotatoria, e chiesi io ricovero a quel punto, però la diagnosi fu immediata. Allora, si riesce a curare in parte, professor Guidetti, a tenere sotto controllo con i farmaci la Meniere? Ci sono varie possibilità, diciamo, di cercare di prevenire le ricorrenze delle crisi, quindi cercare di evitare, un po' come per gli attacchi d'asma o per gli attacchi d'epilessia, si cerca di dare un farmaco a lungo per evitare che ci siano le crisi, no? Ricorrenti. E generalmente i risultati sono buoni. Poi ovviamente quando dovesse capitare la crisi occorre affrontarla per ridurre quell'aumento dei liquidi che caratterizza la crisi stessa, quindi ci sono tante possibilità. Poi c'è anche ovviamente la possibilità di ragionare teoricamente sulla dieta, ma io direi che soprattutto bisogna evitare alcune cose. Sì. Quando questo approccio, chiamiamolo farmacologico, non dovesse dare i risultati voluti, purtroppo bisogna accettare di sacrificare l'organo, cosa che per chi ama i labirinti è sempre una sofferenza, no? Sì. Oltre che per il malato ovviamente. Quando si è costretti a fare ciò si può ricorrere o a delle iniezioni nell'orecchio che spengono l'orecchio, oppure in casi veramente estremi, io direi che oggi non solo rari, dovrebbero essere casi pressoché unici, a tagliare il nervo, quello che si chiama la neuritomia del nervo vestibolare, però insomma è un grande sacrificio, un intervento anche neurochirurgico, non è uno scherzo, ecco, voglio dire. Dottor Manfrin, dottor Manfrin, di massima dovrebbe bastare il farmaco. Dottor Manfrin, vuole aggiungere qualcosa? Che così poi andiamo a Venezia da Marina? Sì, no, perfettamente d'accordo con quanto già esposto. Il concetto della dieta mi permette di stracciare, rasenta quasi più la norma igienica della, di una dieta povera di sale, una vecchissima osservazione che era stata fatta tantissimi anni fa, che consigliamo, non è sicuramente un presidio terapeutico fondamentale e basta, è tutto qua, ecco. C'è uno stile di vita comunque che aiuta, Nadia? Tu facendo, non so, fai attività fisica, cerchi di tenere sotto controllo lo stress, insomma fate qualche cosa per prendervi cura di voi? Sì, è importantissima l'attività fisica. Nel malato di Meniere, che già per natura, per la tipologia del sintomo, tende a chiudersi e rimanere fermo, e questo aggrava l'instabilità, quindi fare attività fisica, non parliamo di attività particolarmente stressanti, però attività fisica all'esterno, movimento, dieta ipossodica, senza arrivare a estremi come a volte si parla, bere acqua che sia leggera, povera di sodio, con un residuo fisso basso, questo è importante. Andiamo a Venezia, ci aspetta Marina, buongiorno. Buongiorno, dunque io volevo presentare il mio caso, cioè due mesi fa, durante la notte mi sono svegliata con delle vertigini fortissime, sì, accompagnate anche da un senso di vomito, e l'orecchio chiuso. Sì. E questo mi è durato, diciamo che per un giorno intero io non ho potuto mettere giù il piede dal letto. Poi sono stata ricoverata, mi hanno detto, loro mi hanno parlato di ipoacusia improvvisa, sì, e mi hanno curato con cortisone e antivirali. E comunque qualcosina ho recuperato, però il mio orecchio è rimasto gravemente danneggiato. E adesso parlano probabilmente di fatto circolatorio, adesso non so se possa avere delle connessioni con questa malattia di Meniere, sì, ma lo chiediamo al professor Guidetti. Professore. Diciamo che la storia che ha raccontato è abbastanza poco ricollegabile alla malattia di Meniere, sarebbe abbastanza improbabile, insomma, a mio parere. Appartiene a un altro genere di patologie che sono praticamente le labirintosi acute, cioè la perdita sia della funzione uditiva che vestibolare acute a seguito appunto di solito di fatti vascolari o virali. È raro che cominci così una malattia di Meniere. Se fosse una malattia di Meniere, la signora avrebbe più possibilità di recuperare dopo questo attacco l'udito almeno. Mentre se non l'ha recuperato, quasi sempre appunto appartiene all'altro genere di cui parlavamo, virale o vascolare. Allora, io direi che possiamo chiudere questa parte della trasmissione in cui abbiamo cercato di fare chiarezza su questa malattia, su cui ancora la ricerca sta indagando. Ci sono dei progetti in corso, dottor Manfrin, vero? Sì, ci sono dei progetti in corso. Perché sapete molto, ma non tutto. No, sappiamo qualcosa, non tutto. È incredibile come una malattia datata ormai parli ancora molto di sé dal punto di vista scientifico, perché si sta cercando possibilmente una causa unica, un unico legame che poi... Ma i dati sono ancora molto disparati. Recentemente si sta cercando di determinare un assetto genetico che però non è ancora stato assolutamente dimostrato ed è scarsamente rappresentato. Si stanno facendo studi in campo immunologico, si stanno facendo studi in campo endocrinologico, si sta facendo una stretta connessione fra malattia di Meniere e emicrania, ad esempio, che è una delle altre modalità con cui la malattia si può accompagnare o comitare nel suo modo di fare. Comunque c'è tanta carne al fuoco, ecco. Allora, io direi che vi aggiorneremo, anche grazie ai nostri esperti, anche a Nadia Gaggioli, che con l'Associazione Italiana Malati Meniere dà sicuramente una mano anche nel diffondere delle informazioni che sono condivise dalla comunità scientifica. Questo è sicuramente un passo importante per raggiungere quell'alleanza tra medico e paziente di cui parlavamo. Nadia, quindi grazie. Rimandiamo al sito dell'Associazione Italiana Malati Meniere. Vuole ricordarlo lei? Sì, www.aimitalia.it. Un'ultima rapidissima cosa, sì, vorrei ricordare che il malato di Meniere non ha alcuna tutela sociale, non ha esenzione dal ticket, non ha l'invalidità nemmeno nei casi più gravi. Ho presentato un'audizione scritta in Commissione Sanità del Senato e siamo in attesa di risposte, però al momento questa è la triste realtà del malato. Allora, grazie a Nadia Gaggioli, al dottor Manfrin e al professor Guidetti per essere stato con noi. Se volete scriverci e saperne di più, i nostri esperti sono sempre a vostra disposizione a essere benessere@radio24.it. Puntini, questa potrebbe essere l'ora giusta. C'è una ricerca che parla molto bene di questi piccoli mini pasto da assumere a metà mattino o metà pomeriggio. Secondo la ricerca condotta presso il Food and Nutrition Database Research del Michigan, questi piccoli spuntini aiuterebbero i ragazzi a mantenersi in forma, a condizione che diventino un modo per ripartire le calorie durante la giornata e non un surplus calorico. Ne parliamo insieme al dottor Giuseppe Fattati, che è tornato a trovarci, presidente dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica. Dottor Fattati, buongiorno e grazie. Buongiorno a voi. Dottor Fattati, piacciono anche a lei gli spuntini? Sicuramente sì, se sono spuntini. Nel senso, ci devono aiutare ad arrivare al pranzo e alla cena senza troppo appetito, senza troppa fame, ci debbono aiutare a mantenere il giusto livello di calorie e soprattutto di glucosio per il nostro sistema nervoso centrale e quindi ci debbono aiutare a stare bene, non debbono essere un qualcosa in più che appesantisce la giornata e ci rende ancora più lenti. Dottore, la ricerca di cui abbiamo parlato è rivolta ai ragazzi, ma gli spuntini vanno bene anche per gli adulti, anche per chi magari ha problemi di peso e a dieta. Se io riesco a frazionare in maniera corretta i pasti, riesco anche a far seguire meglio le diete e sicuramente riduco le oscillazioni glicemiche, ossia come si alzano o si abbassano le glicemie e le oscillazioni dell'insulina che io produco, che è quello che poi dà un rischio metabolico alto. Per cui il frazionare i pasti vuol dire ridurre le oscillazioni del mio metabolismo e migliorare proprio l'efficienza del metabolismo stesso, per cui per esempio per i pazienti diabetici, ma per i pazienti che hanno un qualunque problema metabolico e anche per i pazienti che stanno a dieta è una cosa molto importante. Certamente bisogna evitare che lo spuntino sia un ulteriore peso per noi, nel senso che poi quando parliamo di spuntino dell'adulto parliamo del toast al prosciutto, dello yogurt, della frutta inserita a metà giornata, ossia di tutte cose che vanno, se dobbiamo dare un dato sulle calorie, che non debbono superare di tanto le 200 calorie o debbono stare lì intorno. Poi ogni tanto vediamo, che ne so, quelli che si fanno quei bei panini tonno e pomodoro che sembrano così salutari, ma che in realtà possono arrivare a superare le 500 calorie e allora non va più bene, o gli happy hour usati come spuntini e che non sono proprio lo spuntino tradizionale, non riusciamo mai a quantificare, quindi questo è il problema. Quindi dottor Fatati, spuntini sì, possiamo scegliere sicuramente la frutta, questa è la stagione migliore, yogurt. Yogurt, sicuramente dei buoni frullati, sicuramente la cosa diciamo più tradizionale, che è il toast al prosciutto, sicuramente è sempre salutare. Dottor Fatati, un bel gelato? Il gelato è sicuramente un alimento dal punto di vista nutrizionale, soprattutto le tipologie degli ultimi gelati, quelli che hanno la cialde, cioè hanno una tipologia veramente adatta al nostro metabolismo, però la quantità ci può trarre in inganno, perché il gelato è un qualcosa che è molto rapido, un alimento molto rapido da consumare, e in questa rapidità sta la sua forza e la sua debolezza, perché riusciamo a consumarlo rapidamente, ma rapidamente riusciamo anche a consumare grandi quantitativi, quindi bisogna porre un po' di attenzione, ma sicuramente è un ottimo alimento. Dottor Fatati, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi. Fatto lo spuntino, andiamo a sentire cosa succede su strade e autostrade, poi di nuovo insieme pronti per muoverci coi consigli del dottor Franco Confalonieri. Vi aspetto. Essere e benessere. Torniamo insieme accompagnati dalla musica di Rocky, che serve per darci la carica perché oggi inizia il nostro programma di allenamento che ci accompagnerà in queste settimane di vacanza. Indovinate un po' da chi saremo accompagnati in questo viaggio? Naturalmente dal nostro dottor Franco Confalonieri, che per l'occasione si sposta di giorno. Dal venerdì viene a trovarci al lunedì. Dottor Confalonieri, buongiorno. A lei affideremo i nostri muscoli. I nostri muscoli, il nostro cuore, i nostri polmoni, le nostre ossa e le nostre articolazioni. Diciamo che un po' alla volta sarebbe bello se vi affidaste completamente durante questo mese che verrà. Allora iniziamo, dottor Confalonieri, a tracciare un po' il profilo ideale del suo allievo. Uomo, donna, giovane, meno giovane, pigro, già attivo. Chi vogliamo acchiappare? Ma direi sicuramente pigro, sicuramente sedentario, cioè non ci rivolgiamo a persone che abbiano già abitudine a fare dello sport, che lo facciano abitualmente durante l'anno e che quindi siano sensibili all'importanza dell'esercizio fisico per la salute, per la forma, per il benessere o anche soltanto per l'estetica. Quindi ci rivolgiamo a uomini e donne pigri che però avvertono o individualmente o perché qualcuno fa pressione su di loro, colleghi, mogli, mariti o quant'altro, la necessità di cominciare a fare qualcosa per il proprio corpo, a fare qualcosa per se stessi, e quindi dicono: vabbè, abbiamo davanti un mese in cui si lavora meno, in cui siamo in vacanza, in cui c'è un po' più di tempo, vediamo se riusciamo a fare qualcosa, a cominciare a fare qualcosa. Ci rivolgiamo sicuramente a loro, direi di tutte le età, anche se normalmente questo tipo di esigenza scatta quando si sono superati gli anta, ecco. È vero. E quindi maggiormente alle persone che già hanno, diciamo, sono nel mezzo del cammin di loro vita. Allora, dottor Confalonieri, gli obiettivi di questo programma perderemo chili o potenzieremo i muscoli o l'uno e l'altro? Ma direi che la perdita di peso sicuramente è uno degli obiettivi. Diciamo che l'esercizio fisico ha tra gli effetti positivi quello di aiutarci in una perdita del tessuto grasso in eccesso, quindi se riusciremo a seguire questo programma, che peraltro vedremo poi non sarà particolarmente impegnativo, con continuità, sicuramente un effetto collaterale desiderato sarà la perdita di peso. Però ci saranno anche altri obiettivi, innanzitutto quello di tonificarci dal punto di vista muscolare, soprattutto magari per quei muscoli che tendono a essere meno sviluppati, meno attivi, meno efficaci. Grazie alla tonificazione muscolare e alla ripresa dell'attività potremo poi provare a migliorare la funzionalità delle nostre articolazioni e in particolare di quelle articolazioni che sopportano i carichi maggiori e che normalmente utilizziamo meno, si pensi alle anche, alle ginocchia, alle caviglie, insomma, che sono sempre molto sollecitate e poco coccolate. E poi ovviamente l'obiettivo primario sarà una rimessa in moto in condizioni di maggiore efficienza del sistema cardiovascolare, quindi cuore, vasi e del sistema respiratorio, con, ci auguriamo, dei benefici anche rispetto a un'eventuale lieve ipertensione, rispetto a eventuali problematiche di questi apparati. Diciamo che siamo ambiziosi. Ci piacerebbe anche divertirci un po', dottor Confalonieri, perché spesso andare, lo vediamo, tante volte ci iscriviamo in palestra e poi buttiamo la spugna, oppure decidiamo di andare a correre con un amico, magari tre volte alla settimana, dopo due volte anche lì smettiamo, perché non a tutti fare movimento piace, da soddisfazione. Quindi che cosa pensa di aggiungere per dare appeal al programma che ci andrà a proporre in queste settimane? Diciamo che cercheremo di strutturare questo allenamento inserendo sempre nell'ambito dei diversi esercizi proposti settimanalmente almeno un'attività che sia in forma di gioco e possibilmente di gioco collettivo piuttosto che di uscita collettiva, per esempio in bicicletta. Per cui ci saranno degli allenamenti che dovranno essere fatti o comunque delle attività che dovranno essere fatte individualmente, proprio perché ognuno dovrà ritagliarsele sulle sue possibilità o sulla sua pigrizia o sui suoi orari o sulle sue giornate. Però almeno una volta cercheremo di inserire qualcosa che abbia sì degli effetti benefici, che completi magari il programma svolto individualmente, ma che sia anche divertente, quindi sia in forma di gioco, anche la partita calcetto piuttosto che quella di beach volley o la lezione di acqua fitness al villaggio piuttosto che al mare. Ecco, questa sarebbe l'idea. Ecco, ma quanto ci impegnerà, quanto ci farà lavorare? Tutti i giorni, a giorni alterni, di più nel fine settimana? Ma io lascerei una grande libertà. Siamo in vacanza. Diciamo che l'idea è partire con un obiettivo, quindi la prossima settimana individueremo un primo obiettivo e lavoreremo su quello, e poi ogni settimana inserire un obiettivo aggiuntivo, un obiettivo in più, in modo che man mano il programma si sviluppi, si articoli e diventi sempre più complesso. Io credo che l'impegno possa essere intorno ai 3, massimo 4 allenamenti settimanali della durata dai 30 minuti inizialmente fino a un'ora verso la fine del mese di agosto, quindi direi un impegno che tutti possono sostenere con una certa facilità, se c'è motivazione ovviamente. Però sai che amo molto il concetto di gradualità, quindi partiremo ad agio proprio con un unico obiettivo, poi cercheremo, attraverso la motivazione che viene facendo le cose, sentendosi subito un pochettino meglio, cercheremo poi di aumentare un po' ogni settimana l'impegno anche orario richiesto ai nostri amici ascoltatori. Quindi per questa lezione introduttiva non dobbiamo prendere appunti, ma vorrei anticipare quali potrebbero essere magari le occasioni, i segnali che in qualche modo potrebbero marciare contro. Mi spiego. Dopo il primo allenamento magari avvertiremo il classico dolorino. È normale, dottor Confalonieri, però sentirsi tutti doloranti magari la volta, il giorno dopo si fa più fatica a riprendere in mano il programma. Sì, diciamo che potremmo incontrare due difficoltà fondamentali. La prima, lo scoramento, oserei dire, è che se siamo pigri e inattivi da tempo, proveremo iniziando a fare qualcosa perché ci sentiremo davvero messi male, ecco, messi male nel senso senza che fiato soprattutto. Pochi hanno la percezione reale di quanto un corpo non allenato sia un corpo limitato. Quindi iniziare sarà sicuramente difficile sul piano psicologico, perché ci prenderemo contatto con i limiti del nostro corpo che abbiamo trascurato così a lungo, e quindi sarà facile reagire dicendo vabbè, non ci penso, rimuovo il problema, perché è troppo umiliante o poco motivante rendermi conto di quanto male sto, ovviamente male tra virgolette, certo. E questa è la prima grossa difficoltà. La seconda è quella cui giustamente accennavi, e cioè il fatto che il momento che ci si rimette in movimento, la prima risposta che abbiamo è dolore muscolare, proprio perché si stringono i denti e si continua. I muscoli non sono più abituati a lavorare, l'esercizio fisico si accompagna necessariamente a dei microtraumi a livello muscolare, a delle microlesioni che sono dolorose, le quali però dobbiamo imparare a viverle come il segno che stiamo andando nella direzione giusta. Nel senso che il muscolo, nel momento in cui ripara questi microtraumi e queste microlesioni, automaticamente incrementa la sua efficienza, la sua forza e qualche volta anche il suo volume. Quindi sopportiamo questo dolore come un segnale che il nostro corpo sta ritornando in forma. Allora, diamo anche un'indicazione a chi ci sta ascoltando. Come ci vestiamo per fare questi esercizi? Perché almeno noi donne siamo molto sensibili, no? Quando ci iscriviamo in palestra, magari la tutina di aerobica, facciamo attenzione alle scarpe. Lei come pensa? Ha delle indicazioni da dare? Sì. Dobbiamo avere, non lo so, la classica tuta. Penso che anche il materiale, anche gli indumenti possono in qualche modo fare la loro parte. Ma certamente, diciamo che in buona parte questo programma uno lo svolge individualmente, quindi nell'ambiente, nel contesto, negli orari, nelle situazioni che preferisco, che sono più comode. Quindi anche in mutande a casa, vuol dire? Esattamente. Ok, allora però piena libertà. Eviterei, questa è una notazione che sembra frivola ma non lo è, eviterei le mutande a casa, nel senso che un abbigliamento adeguato, tutto sommato, ci consente di migliorare il nostro rapporto col corpo, che vive una fase critica se ricominciamo a fare qualcosa. Quindi il primo consiglio è: vestiamoci in modo da piacerci un po' di più. Quindi magari nascondendo quello che è meno bello e non evidenziando quello che è più brutto. Uno. Sì. Due, vestiamoci in modo comodo, perché è chiaro che proprio per reimparare a utilizzare il corpo dobbiamo essere in condizioni di agio. Tre, ricordiamoci che dovremmo fare l'esercizio relativamente scoperti e coprirci appena finito l'esercizio. Il vecchio consiglio della mamma, che tutto sommato ha ancora una sua validità, per non trovarci col raffreddore dopo una settimana e quindi non ritrovarci all'appuntamento con la radio proprio perché ci siamo ammalati. Allora, dottor Confalonieri, appuntamento alla prossima settimana. Oggi abbiamo tracciato un po' il profilo del nostro corso e del nostro percorso. Diciamo che abbiamo invitato i nostri allievi. Abbiamo invitato i nostri allievi, speriamo di avere delle classi molto numerose. Tocca lavorare allora. Esatto, pronti anche a scrivere, perché daremo proprio delle indicazioni molto concrete di allenamento. Alla prossima allora, grazie. Grazie. E per oggi è tutto, cari amici. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Buon lunedì da Nicoletta Carbone.